Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buon pomeriggio a tutti da Gegè Telesforo, qui dal Groove Master Studio per il consueto appuntamento con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, prima parte della domenica, sempre in compagnia del nostro Francesco Tromba, che oggi vedo, mi sembra, molto attento e più preparato che mai, perché parliamo dei Grammy Awards. Lo abbiamo annunciato ieri. Che cosa sono i Grammy Awards, mio caro Francesco Tromba? Potremmo dire, per semplificare, che sono l'equivalente degli Oscar nel cinema, ma però nella musica. Ecco, sì, infatti per gli artisti, per l'industria discografica, il Grammy Award è uno dei premi più importanti negli Stati Uniti, ma anche per la discografia inglese. Ecco, questa è una cosa che bisogna far notare agli amici, che non è un premio internazionale come tutti potremmo pensare, perché è molto difficile per un artista, no, che non appartiene alla discografia inglese americana, poter accedere anche alle nomination, a meno che non si tratti di un artista sotto contratto con una multinazionale e che possa rappresentare alcuni generi, tipo della musica classica, no? Anche molti italiani hanno vinto i Grammy Award. Però torniamo al premio. Allora, quest'anno la consegna dei premi è avvenuta più o meno un mese fa. Sì, l'8 di febbraio scorso. Ecco, grande spettacolo come sempre in quel mausoleo fatto per la musica che è per lo spettacolo, che è lo Staples Center di Los Angeles, con la diretta televisiva da anni affidata alla CBS. C'è stata quindi la consegna con un grandissimo spettacolo. Qualcuno ha anche criticato lo spettacolo, come noi facciamo con il nostro Festival di Sanremo. Eh sì, perché diciamo soprattutto la parte che precede comunque la cerimonia di premiazione, dove ci sono tutte le esibizioni, magari può somigliare un pochettino a Sanremo, ovviamente con le dovute prospettive, nel senso che ovviamente ci sono degli artisti che hanno comunque una fama internazionale, come ad esempio Pharrell Williams, c'era l'esibizione di Pharrell Williams o di Madonna nella cerimonia precedente, e quindi diciamo è un pochettino lenta, potremmo dire. Quindi sì. Lo spettacolo, tu parli dello spettacolo. Perché si alternano artisti che magari hanno una storia completamente diversa l'uno dall'altro, vengono da generi completamente diversi, quindi magari non c'è un legame. Eh beh, ma bisogna fare spettacolo, bisogna fare televisione, lo sappiamo, perché nel nostro piccolo anche Sanremo funziona così. Ma cerchiamo di capire come funziona la consegna dei Grammy Award. Intanto il premio viene assegnato da una commissione, ovvero la Recording Academy, che è un'associazione di artisti e tecnici statunitensi coinvolti nell'industria musicale, che si assumono la responsabilità di ascoltare le produzioni degli ultimi 2 anni. Infatti il premio è retroattivo rispetto alla pubblicazione discografica. Sì, anche rispetto agli Oscar, quindi è capitato in alcuni casi, ad esempio, che alcune colonne sonore di film che avevano vinto gli Oscar nell'anno, per la musica, sì, poi nell'anno un precedente, anno, l'anno dopo hanno vinto anche il Grammy Award. Allora, i Grammy vengono consegnati per 105 diverse categorie, che sono poi suddivise rispetto a 30 generi musicali che abbracciano il pop, l'R&B, il jazz, soul music, latino, musica classica e poi anche altre categorie, country music, folk music, musica cristiana, insomma ce n'è per tutti i gusti, tanto per accontentare tutto l'ambiente. Però ci sono 4 categorie che sono considerate importantissime. Perché considerate importantissime? Sono i premi più prestigiosi, perché le categorie sono note poiché sono le uniche 4 che non racchiudono gli artisti per genere musicale. Quindi si dà si assegna il premio per la registrazione migliore dell'anno, l'album migliore dell'anno, la canzone migliore dell'anno e anche il migliore artista emergente. Queste sono le quattro categorie fondamentali. E quest'anno ha fatto bottino pieno non un americano, e questo è meraviglioso, ma un ragazzo inglese, probabilmente al debutto discografico, come Sam Smith, che avvalendosi anche della collaborazione di Mary J. Blige porta a casa quattro premi fondamentali. Disco dell'anno, canzone dell'anno, registrazione dell'anno, poi Best New Artist e naturalmente Best Pop Vocal Album. Ha Quindi, fatto bottino pieno. Sì, ha vinto il Super Enalotto. Se la sono presa gli americani? Mi sa un po' sì. Assolutamente sì. Allora, presentiamo Sam Smith. Naturalmente non vi facciamo ascoltare Stay With Me, che poi è il brano che ha vinto anche il premio come Song of the Year, ma un'altra composizione che troverete nell'album In the Lonely Hour. Il brano si intitola I'm Not the Only One e lui è il formidabile Sam Smith qui al Soundcheck di Radio 24. Cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I'm not the only one, per presentarvi il signor Sam Smith, ragazzo inglese che si è aggiudicato un bel po' di premi all'ultima consegna dei Grammy Awards: Record of the Year, Song of the Year, Best New Artist e Best Pop Vocal Album con l'album In the Lonely Hour. Questo è il Soundcheck di Radio 24. Oggi parliamo dei Grammy Award e anche la signorina Beyoncé ha vinto un bel po' di premi, è vero Francesco? Sì, ha vinto due premi se non sbaglio, miglior canzone R&B e anche miglior performance R&B. E anche qui qualcuno ha storto il naso, perché comunque nell'ultimo anno ci sono stati degli album R&B forse più belli di quello di Beyoncé, sì, un po' magari troppo patinato e troppo pop, non tanto sì, magari lei però ha venduto di più anche. Infatti ho letto anche una critica molto acida nei confronti dei Grammy Award, proprio dell'impostazione del premio da parte di uno dei giornalisti che scrive per Soul Tracks. Sì, ha scritto che ogni tanto diciamo è un po' troppo conservatore il modo di giudicare della commissione che appunto sì, poi appassionato di quel genere di musica titolava proprio l'articolo Dov'è il soul ai Grammy Award. Va bene, ma queste sono cose proprio da americani. Torniamo ai premi, un altro signore che si è aggiudicato un bel po' di statuine è il nostro amico Beck Hansen. Dico amico perché anche noi abbiamo suonato tantissimo questo album intitolato Morning Face, veramente bello, molto piacevole, e si è aggiudicato Album of the Year, Best Rock Album, ma anche Best Engineered Album Non Classical, quindi un premio che viene assegnato più all'ingegnere del suono e alla realizzazione proprio sonora della produzione discografica di Beck Hansen, che torna al Soundcheck con Morning. This morning, Sound check. Il suono della musica. Thank you. La versione remix by Ahmed Sirur di un successo come Happy di Pharrell Williams, anche lui vincitore ai Grammy Award quest'anno con l'album Girl, che ha portato a casa il premio come Best Urban Contemporary Album, ma Pharrell Williams si è aggiudicato anche Best Music Video e Best Pop Solo Performance. Tra l'altro aveva quasi vinto l'Oscar all'ultima consegna degli Oscar proprio con Happy, brano portante della colonna sonora del cartone animato Cattivissimo Me, poi strappata invece l'Oscar è stato strappato da Let It Go, composizione presente nel cartone animato bellissimo Frozen. Allora, Pharrell Williams protagonista anche lui ai Grammy Award, ma c'è anche una band molto interessante della quale noi vi abbiamo parlato qui al Soundcheck, una band a cappella, ovvero solo voci, quelle splendide dei Pentatonix, che hanno vinto un premio importante strappandolo, che so, ai Tech Six e altre band di riferimento, quindi Best Arrangement Instrumental or a cappella, quindi miglior arrangiamento per voci o per strumenti, se l'è aggiudicato questo premio questa band chiamata Pentatonix, con un brano poi in particolare, un brano intitolato dai Pentatonix Daft Punk, proprio perché una composizione, una specie, potremmo definirlo un potpourri, come si dice mashup delle composizioni più importanti dei Daft Punk. E quindi in qualche modo ci ritroviamo anche Pharrell Williams, che poi è l'artefice come compositore di Get Lucky. Sì, è vero. Ritorno. Allora, tu che dici? Ascoltiamo subito Pentatonix o avevi altre informazioni sui Grammy Award? Una piccola informazione su questo gruppo che magari non è conosciutissimo in Italia. Dai. Era inizialmente, originariamente, un trio che si è sciolto per un periodo durante l'università, perché questi tre ragazzi facevano l'università e poi si sono rimessi insieme per partecipare ad un talent show di gruppi a cappella, solo che dovevano essere almeno in cinque, quindi hanno trovato altri due membri, uno conosciuto su YouTube e l'altro conosciuto all'università. Mi sa che quello preso su YouTube è il vocalist che realizza la parte ritmica, la parte vocale, beatbox. Fa il beatbox. Ok, allora ascoltiamo Pentatonix al Soundcheck con Daft Punk. One more time. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E anche Tony Bennett e Lady Gaga con questa pubblicazione intitolata Cheek to Cheek, gli standard di jazz proposti dalle voci del veterano del jazz Tony Bennett e la pop star Lady Gaga, hanno portato a casa il Grammy Award per Best Traditional Pop Vocal Album. E la notizia è ufficiale perché la strana coppia sarà presente alla prossima edizione di Umbria Jazz, quindi a luglio a Perugia potremo verificare personalmente quanto sono forti insieme oppure no Tony Bennett e Lady Gaga. Sì, il 15 luglio saranno a Perugia, quindi... Quindi sappiamo la data, si può già comprare il biglietto in prevendita? Credo si possa già fare un pre-order tramite internet. Ecco, allora, senti, ma ci sono italiani che hanno vinto il Grammy Award? Sì, ce ne sono diversi, anche se non proprio recentissimi, quelli più recenti sono pochi. Ad esempio, ovviamente, Domenico Modugno, famoso in tutto il mondo. Credo che cosa, fine anni 50? Sì, era nel 1958, fece addirittura il bis, vinse il miglior album dell'anno e anche la migliore canzone con Nel blu dipinto di blu. Eh certo, una composizione immortale, però credo che anche Laura Pausini si aggiudicò un Grammy Award con una pubblicazione per il miglior album latino, credo. Sì, esatto, la traduzione in lingua spagnola, di una sua pubblicazione. Perché in Sud America va fortissimo. E poi vabbè, tanti premi li abbiamo vinti con il repertorio classico, addirittura Luciano Pavarotti ne ha vinti 5, Renata Tebaldi però sempre nel 1958 come migliore performance classica, come voce solista, il pianista Maurizio Pollini nel 2007 ha ricevuto il Grammy Award per la migliore interpretazione strumentale solista, quindi senza orchestra, Ennio Morricone un premio alla carriera, ma insomma poi altri premi, non stiamo a dirli tutti, sempre per la musica classica, no? Ma anche un premio bizzarro, fammelo dire, lo ha vinto un DJ italiano. Sì, Benny Benassi. È bravo, perché lo vinse nella categoria dei remix. Sì, è anche questo nel 2008. Anche Giorgio Moroder, se non sbaglio, stessa categoria. Perché è italiano Giorgio Moroder? Pare di sì. Quindi insieme a Donna Summer, però. Sì, sì. Allora, torniamo alla musica. Che cosa vogliamo suonare? Ah, e questa è una delle categorie più importanti per me, perché stiamo parlando della miglior album di jazz vocale, e anche qui c'è da riflettere, perché poi l'album Beautiful Life di Diane Reeves non è un album di jazz. No, infatti. Diciamo una cosa, un crossover. Sì, non prettamente jazz. È quasi più R&B e soul che. Possiamo dirlo. È l'album meno jazz di Diane Reeves. Esatto, è sempre così. Quando si vincono i premi. E ha preso il Grammy, quindi ci ha visto lungo. Allora, Diane Reeves con 32 Flavors, brano della rocker, vedi? Annie Di Franco, qui al soundcheck di Radio 24, Diane Reeves. Squint your eyes and look a bit closer. I'm not between you and your. I am a poster girl with no poster, and I am 32 flavors and thin some, and I am beyond your peripheral vision. So you might wanna turn your head, because one day you're gonna get hungry and eat all the words you just said. Soundcheck, il suono della musica. E nella puntata di oggi del Soundcheck qui su Radio 24 vi stiamo raccontando dei Grammy Award, il premio più importante per la discografia internazionale, o meglio per la discografia inglese e quella americana. Vi abbiamo parlato delle categorie più importanti, perlomeno quelle che apprezziamo di più noi del Soundcheck, e in qualche modo abbiamo portato fortuna ad alcuni artisti proponendo il loro repertorio, o forse abbiamo avuto naso, perché abbiamo vinto in qualche modo il premio in diverse categorie, mio caro Francesco Tromba. Fammi prendere anche questo merito. Eh sì, siamo abbastanza bravi ad ascoltarne, diciamo, abbiamo selezionato bene, dai. E un altro premio che noi abbiamo azzeccato è un po' come quando si vede il Festival di Sanremo, si fanno le scommesse a casa, chi vincerà il festival, chi arriverà secondo, succede, no? L'hai fatto anche tu quest'anno. Sì, di solito. E hai vinto? Tra amici, no, non ho vinto quest'anno. Neanch'io. Beh, però io vedi ci ho azzeccato ancora una volta per il gospel, e qui ho avuto veramente naso, e il mio, come puoi notare, è abbastanza pronunciato, perché ho indovinato la vittoria di Erika Campbell, una cantante accreditata che ne aveva già vinto uno con sua sorella. Come si chiama la sorella di Erika Campbell? Tina Campbell. Vedi, non ti sfugge nulla, perché insieme avevano Mary Mary, una band di riferimento del gospel contemporaneo. E allora Erika ha lasciato a casa sua sorella, ha prodotto questo album intitolato Help, ha chiamato il rapper Lee Cree, che tra l'altro è un rapper credente, religioso, è un rapper, un gospel rapper. Per questo motivo infatti era nella categoria gospel anche lui, no? Anche lui, e certamente, e ha portato a casa il premio per noi. Abbiamo indovinato ancora una volta. Una volta, e che facciamo? L'ascoltiamo? Ascoltiamolo. Help, Erika Campbell al soundcheck. dear Lord, I need a little help now, see? I feel left out, I can't tell my right from my left now. But my mama's crying cause my daddy's dying. He got pains all in his chest now. My daughter's having these nightmares. I might be wrong, but I'm right here, yeah. I'm trying to hold on when my hands hurt or the ropes out. Cause when life fights, it don't fight fair. So I'm leaning all on these ropes now. And I got hope, but it's low now. So I'm leaning all on these quotes now. Like never leave me, won't forsake me. If you don't help me, Erica Campbell, vincitrice alla consegna degli ultimi Grammy Awards per miglior album gospel. E ormai siamo esauriti, siamo quasi pronti per darvi l'appuntamento alle 19.15 per la seconda parte del soundcheck con alcune novità del genere, ma parleremo anche dei premi dei Grammy Award vinti in questo tipo di sezione. Quindi nel jazz, sì. Quindi nel jazz. Senti, quali sono, per chiudere, gli artisti o i nomi che si sono aggiudicati in carriera ma anche con una sola produzione più Grammy Award? Sì, il record assoluto è nelle mani di Michael Jackson, che nel 84 con Thriller ricevette addirittura 12 nomination. Caspita. Ai Grammy Awards, e ne vinse 8, record. Mamma per mia. Un album. Il King of Pop, no? Eh sì, fortissimo. E poi mi sa che anche Quincy Jones come producer vinse in carriera, in carriera ne ha vinti diversi, sì, credo. 27, il secondo in classifica. Mamma mia, generale. Ma se li merita tutti, eh? Eh sì, anche lui ha parecchio naso, possiamo dire, no? Ecco, e noi abbiamo vinto ancora una volta in un'altra categoria. Abbiamo avuto naso anche per questa categoria e siamo particolarmente felici per il nostro amico Robert Glasper, artista a noi molto caro, eccellente pianista, che ha vinto quindi il secondo Grammy Award in carriera, sì, per le due produzioni, Black Radio 1 e Black Radio 2. L'anno scorso ha vinto miglior album R&B e quest'anno, per la partecipazione di Lala Hathaway con Jesus Children, il brano di Stevie Wonder riproposto in chiave contemporary da Robert Glasper, porta a casa Best Traditional R&B Performance. E tra l'altro anche Lala Hathaway si ritrova a vincere il secondo Grammy di seguito, perché l'anno scorso l'ha vinto come migliore performance R&B per la partecipazione all'album di Snarky Puppy Family Dinner, con degli album che non ha fatto lei. Ah, sono stanco, ho parlato tanto. Eh sì, è difficile. Va bene, allora ci fermiamo, vi diamo appuntamento alle 19.15. eccolo qui Robert Glasper, Lala Hathaway, Jesus Children, Best Traditional R&B Performance ai Grammy Award. Ci sentiamo più tardi. Hello Jesus, Jesus children, Jesus loves you, Jesus children. Hello children, Jesus loves you of America. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you hearing, praying, feeling what you say inside? Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica di JJ Telesforo. Ben ritrovati, siete nuovamente collegati con il Groovemaster Studio per la seconda parte del soundcheck, la prova del suono di Radio 24 nella parte più jazz del nostro programma. Ebbene Francesco Tromba, mio caro, ci sono delle nuove pubblicazioni, anche se sono appena stati stampati questi CD, ci ripropongono materiale immortale con protagonisti, artisti indispensabili se siamo e se siete dei veri appassionati di jazz. Certo, non ci può non essere nella vostra discoteca un disco di Nat King Cole. Oh, no? Bravo, e infatti eccolo qui, Nat King Cole Trio The Complete After Midnight Sessions, due CD al prezzo di uno, potrei dire, però due CD meravigliosi dove viene fuori l'arte e il talento di uno dei protagonisti della storia del jazz, eccellente pianista, meraviglioso cantante, la classe in persona. Ancora oggi Nat King Cole fa scuola con la sua vocalità e il suo stile. Pensate che ha iniziato veramente da bambino a suonare il pianoforte, cimentandosi con gli studi classici, suonava Bach e Rachmaninoff, poi scoprì il senso innato per Nat King Cole dello swing e ha fatto una carriera strepitosa. È importantissimo Nat King Cole anche per la comunità afroamericana, perché è stato, pensate, il primo artista nero ad avere un suo programma radiofonico e poi intorno alla fine degli anni 50 ad avere un suo programma radiofonico, e ha avuto anche un po' di problemi. Sì, purtroppo gli sponsor di questi due programmi si ritirarono dopo un iniziale accordo. Dichiararono proprio perché non volevano legarsi a un artista di colore, e infatti Nat King Cole durante l'arco della sua carriera combatté il razzismo e rifiutandosi molto spesso di esibirsi nei locali dove venivano applicate le norme sulla segregazione razziale. Artista fondamentale per la musica in genere che noi oggi vi proponiamo ancora una volta da The Complete After Midnight Sessions, con la partecipazione anche del trombettista Harry Edison. Quindi il Nat King Cole Trio con un brano strepitoso intitolato Candy. I got a sweet tooth for my sweetheart Candy. It's gonna be just dandy the day I take my candy and make her mine, all mine. It's gonna be just dandy when I take my candy and make her mine. La classe infinita e immortale di Nat King Cole al soundcheck di Radio 24, da questa recentissima pubblicazione intitolata The Complete After Midnight Sessions. Quindi se vi dovesse ancora mancare la presenza nella vostra discografia di Nat King Cole, approfittate, perché qui insomma c'è, non posso dire il meglio perché ha registrato tanti dischi, però una bella dose di swing da queste pubblicazioni viene fuori. Nat King Cole al soundcheck. Tra l'altro lo sai che lui era convinto che fumando sigarette al mentolo migliorasse la sua voce. Sì, ma è famosa questa cosa. Fumava sigarette al mentolo prima di entrare in studio di registrazione, esatto, perché secondo lui dava un timbro particolare alla sua voce. Poi però ci è rimasto secco proprio per questo motivo. Allora, da Nat King Cole a un altro protagonista di quel periodo, un meraviglioso clarinettista chiamato Buddy DeFranco, e anche Buddy DeFranco si ritrova in un doppio CD con la sua orchestra a celebrare due clarinettisti di riferimento della storia del jazz come Benny Goodman e Artie Shaw. Infatti ci sono tutti e due gli album, Buddy DeFranco I Hear Benny Goodman, Buddy DeFranco I Hear Artie Shaw. Eh sì, il clarinetto è uno strumento bellissimo e un po' si è perso nel jazz contemporaneo l'utilizzo di questo strumento che ha fatto la storia del jazz. Sì, tra l'altro in quegli anni c'era appunto erano due le figure di riferimento quando c'era Buddy DeFranco, l'altro era Tony Scott. Beh, Tony Scott perché era l'innovatore, sì, no? Faceva parte dell'ambiente bebop con Buddy DeFranco, Benny Goodman e Artie Shaw certamente possiamo delineare un po' l'evoluzione dello strumento. Allora direi di ascoltare subito questo brano intitolato Soft Winds, che appartiene al repertorio di Benny Goodman, celebrato magistralmente da Buddy DeFranco e la sua orchestra. Soundcheck, il suono della musica. Thank you. E dopo l'informazione di Radio 24, di nuovo dal Groovemaster Studio per gustare l'equilibrismo vocale della contrabbassista Esperanza Spalding, che partecipa al disco The Invasion Parade del giovane pianista Alfredo Rodriguez, molto apprezzato da Quincy Jones. E Alfredo Rodriguez ha scritto questa composizione intitolata El Guige, dove Esperanza Spalding mette in evidenza le sue doti anche di eccellenza cantante. Ecco, qui la Spalding utilizza la voce come uno strumento, un vero strumento intonato e perfetto. Eh sì, magari non era il suo obiettivo principale quello di diventare una vocalist, ma strada facendo è migliorata di giorno in giorno. Sì, e anche le sue pubblicazioni discografiche hanno iniziato a vendere di più da quando Esperanza Spalding ha scritto canzoni, fra virgolette, poi sono composizioni molto complesse. E perché vi abbiamo presentato Alfredo Rodriguez? Perché con questo album The Invasion Parade ha rischiato di aggiudicarsi un Grammy Award importante, ovvero quello per il Best Latin Jazz Album, ma non lo ha vinto lui. No, l'ha vinto c'è chi un ha altro. Fatto di meglio, c'è, lo ha vinto un altro che noi abbiamo presentato qui al Soundcheck. Puoi non dire che non te lo avevo detto. Eh sì, abbiamo anche presentato diverse volte i suoi concerti, perché è sempre in giro lì a New York, essendo di base a New York. E quindi di chi stiamo parlando? Vi stiamo parlando del bravissimo compositore, arrangiatore, un eccellente musicista come Arturo O'Farrell and the Afro Latin Jazz Orchestra. Sì, venne scoperto da Carla Bley quando lui aveva 17 anni, lei andò a un suo concerto e rimase rapita dalla bravura di questo giovane pianista e lo portò con lei in tournée. È figlio di un altro musicista di origini cubane. Lui però è nato in Messico e poi quando avevano 5-6 anni si è trasferito a New York City, dove ha iniziato da subito praticamente a suonare il pianoforte. Sì, la passione per il jazz, per l'improvvisazione con la clave latina nel sangue, ha portato poi Arturo O'Farrell a New York a riunire una band eccezionale, musicisti di top class, potrei definirli, fra questi anche Jason Lindner, pianista di riferimento della nuova generazione, bianco, appassionato del genere, che ha diretto in studio di registrazione l'orchestra di Arturo O'Farrell, per esempio per la realizzazione di questo brano splendido, un vero capolavoro intitolato They Came, brano che racconta proprio le origini della musica latina a New York, cioè quando a New York sbarcarono questi campioni di ritmo. Ecco, il tutto viene raccontato in They Came, dall'album intitolato The Offense of the Drum. Come potremmo definire? L'attacco del tamburo? Sì, l'offensiva. L'offensiva del tamburo. Arturo O'Farrell, vincitore quest'anno ai Grammy Award per Best Latin Jazz Album, qui al Soundcheck. They came. They came from the land of Borinquen, where caciques once ruled, the coquilles cried, and the parrots flew, speaking Taino in canoes, eating guava and yuca under the sunshine. From the lands that conquistadors conquered, carving new cultures, carrying Africans that brought bomba, where saints doubled as orishas, hundreds of years of assimilated ethnic mixing in their bloodstreams. Can you hear me? Wow, me. Soundcheck, il suono della musica. Hunger hurts, but starving, it works. When it calls too much to love, though. ancora una volta al soundcheck Paper Bag, composizione scritta dalla rocker Fiona Apple, però affidata in questo caso alla voce della bravissima Shayna Steele, con Christian McBride al contrabbasso e Eric Harland alla batteria, dall'album di Shayna Steele appena pubblicato intitolato Rise, che sta dominando la classifica jazz iTunes lì negli Stati Uniti. E abbiamo anche avuto la possibilità di poter seguire, chi ha avuto la fortuna di vederla dal vivo in Italia per una serie di concerti, questa bravissima vocalist che speriamo di ritrovare nei festival estivi. Speriamo magari anche di riuscire a intervistarla prima o poi. Ecco, e hai notato che ha buon gusto la signorina Shayna Steele, perché per la realizzazione di questo album ha chiamato quello che io considero il miglior contrabbassista in circolazione per quel che riguarda il jazz, ovvero Christian McBride, che porta a casa anche lui in qualche modo il Grammy Award, perché Christian McBride ha fatto parte dell'organico messo su da Chick Corea, che due anni fa ha riunito Christian McBride e il batterista Brian Blade per realizzare una bellissima tournée registrata e riproposta su disco sotto il nome di Trilogy. E Chick Corea con il suo trio porta a casa quest'anno il Grammy Award per il miglior album strumentale di jazz, Best Jazz Instrumental Album, ma anche per il miglior assolo di jazz dell'anno, anche se poi l'assolo, ovvero quello fatto su una sua composizione intitolata Fingerprints, è stato realizzato due anni prima. Sì, in tournée, no? Comunque una bella cosa è pubblicare un disco dopo aver fatto la tournée e vincere il Grammy Award due anni dopo. Chissà se se lo aspettava. Una carriera così fortunata, ne ha vinti diversi di Grammy Award, non è che gli cambia più di tanto la vita. Sì, ormai. ha detto quello che doveva dire. Ha fatto l'abitudine. Allora, chiudiamo proprio con Chick Corea, vincitore per il miglior assolo per la sua composizione Fingerprints dal vivo, miglior album strumentale, album live intitolato Trilogy, con Christian McBride al contrabbasso, Brian Blade alla batteria. Il brano con il quale vi salutiamo si intitola You're My Everything, e vi diamo appuntamento quindi al prossimo weekend. Grazie a Francesco Tromba ancora una volta per la partecipazione. Grazie a tutti per averci ascoltato. E infatti è proprio così. A tutti voi buona settimana, buon lavoro e soprattutto buona musica da Gio Telesforo.